Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Parole e dintorni, Milano. Una band emergente oggi per la nostra intervista. Milanesi, amici fin dalla scuola, ora cominciano ad avere importanti riconoscimenti. L'ultimo album è Shock, loro sono l'introverso. Allora, diciamo che appunto è una band, anche perché al plurale gli introversi era abbastanza ridicolo. Comunque no, arriva dalla musica, non tanto noi come persone, è una musica molto introspettiva, di solito le tematiche sono così, sono anche un po' malinconiche, scure, e quindi ci sembrava adatto. Però comunque coltiviamo una speranza che c'è anche all'interno delle canzoni. È un album malinconico, ma con sempre una coda finale di speranza. Anche se non era il mondo che vi immaginavate, come dite, c'è una via d'uscita? Sì, la speranza è nella vita in sé. Insomma, quando ti svegli e ti batte il cuore, insomma, provi emozioni nella vita e è quello alla fine che ti fa andare avanti, no? Perché la felicità è una cosa che ricerchiamo tutti. E anche se nella maggior parte della nostra vita le fasi tristi sono superiori rispetto a quelle felici sono talmente intense che alla fine è per questo che viviamo, no? Siete ragazzi della Barona, è un quartiere di Milano un po' particolare. E sì, c'è anche la Barona nelle nostre canzoni, nel senso non esplicitamente, non la citiamo, però è un'influenza troppo forte, è un quartiere comunque di periferia che è sempre stato difficile, però è dentro Milano, quindi è diverso dalla provincia. Sei a Milano, ma sei comunque un po' ghettizzato, ma ci metti pochissimo per arrivare, che ne so, a Porta Genova, che è il centro della movida. Ce l'hanno promesso, non ce l'hanno permesso, avremo il nostro spazio, nello stivale stretto. Il ponte dei sospiri ci ha lasciato senza fiato, quello che univa noi invece è crollato. Il mio silenzio ti accoltella, il mondo fa schifo, ma la vita è bella. Le tue lacrime rompono il silenzio e il mio cuore è spento. Sugli alberi è gennaio, ma dentro ho l'inferno, è buio tutto il giorno. La fuga di notizie, i poteri. Voi vi conoscete fin da ragazzi? Noi tre siamo rimasti sempre allo zoccolo duro, che parte soprattutto dall'amicizia, cioè noi al di là di come andrà la musica, del fatto che il gruppo ci sarà ancora, rimarremo amici perché lo siamo da 20 anni praticamente. Siccome avviene tutto, cioè quando si fa un percorso al di fuori dei talent show, si cresce in continuazione, ma molto lentamente, quindi in realtà non te ne accorgi, perché non è una cosa che tipo, non lo so, chi va a X Factor, che fino a un secondo prima non è nessuno, nel giro di un mese diventa famosissimo e poi purtroppo molto spesso nel giro di 3 mesi torna nel dimenticatoio. È una cosa che viene talmente lentamente che è quasi come se fosse organica, quindi non c'è un impatto particolare, non ce ne rendiamo conto, perché è sempre una crescita continua, lenta ma continua. Che cosa sognate per il futuro, visto che appunto crescendo lentamente e diventando comunque grandi, ne avete viste tante insieme? Sembra strano per chi fa musica, però vorremmo, anche al di là della musica, perché il futuro non sa mai come andrà, una vita più solida dal punto di vista lavorativo, per poter costruire un futuro che la nostra generazione non ha, perché tra contratti precari, tra disoccupazione, è la nostra normalità, quindi in realtà è banalmente una solidità economica, ma al di là della musica, anche se faremo altro. Insomma, una volta eravamo più ossessionati dal fatto di vivere di musica, adesso invece siamo contenti di non vivere ancora di musica, perché non siamo costretti a fare gli album per pagare l'affitto, ma quando abbiamo davvero il desiderio di farlo, perché avendo qualcosa al di fuori di più sicuro, potremo soprattutto un giorno farlo quando vogliamo e basta. Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con l'introverso. I prossimi appuntamenti con Radio Tube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.